Mannaggia, mi sa che ci siamo persi. Proviamo a chiedere a quel signore. Mi scusi? Prego. Lei è di qui? Ma... forse. Sa dirci da che parte si va per Piazza del Popolo? Ma sì, forse per di qua, magari andando di là, dipende. Sì, vabbè, ma in pratica? Guardi, ripassi tra qualche mese, le faremo sapere. Noi non siamo così. Per le tue domande o segnalazioni, chiama la Regione Lazio al numero verde 800 012 283. Regione Lazio, risponde al cittadino.